Cominciamo da un libro che è abbastanza particolare, ne parliamo appunto sia con Alessio che Patrizia, per chi l'ha letto. È innanzitutto un romanzo a fumetti, parla di Federico, parla della storia di Federico, ma non va a raccontare direttamente le ore che hanno poi portato alla morte di Federico, come ben sappiamo, come sono state ricostruite. Ci sono alcune pagine fatte veramente molto bene, qui facciamo i complimenti al disegnatore proprio sulla descrizione dell'omicidio stesso, però poi è un libro che parla anche di tanto altro. E a te, Alessio, magari così un racconto anche come è venuta fuori l'idea, come sarà, come è uscita. Sì, ricordiamo che il libro è disegnato da te, i testi scritti insieme a Checchino Antonini, giornalista di Liberazione, a cui vanno girati i tuoi complimenti, ovviamente, perché certo, se no non mi sarei mai permesso di disegnare una cosa che ti può piacere. Intanto c'è da dire che il lavoro fatto per questa casa editrice, che intanto approfitto per salutare Patrizia nuovamente oggi in diretta, questo libro ci è stato proposto forse due anni e mezzo fa dalla casa editrice stessa, ed era proprio proprio qualche mese dopo la scoperta della notizia, perché fino a tre mesi da quel fattaccio, fino a quando Patrizia non ha deciso di aprire questo blog per raccontare quello che era successo, ma soprattutto per chiedere aiuto, non veniva nemmeno considerata come una notizia, veniva subito considerata o con il beneficio del dubbio, come una delle tante, forse anche come una delle tante bufale che si vedono su internet. In realtà il lavoro d'inchiesta di Checchino Antonini, che oltre a essere coautore di questo libro a fumetti, anche soprattutto giornalista per Liberazione, ha fatto la sua inchiesta, la sua un po' caparbietà, ha fatto in modo che questo fatto venisse fuori e diventasse quello che è, cioè una notizia. Quindi siamo nel giugno del 2006, quasi un anno dopo la notte del pestaggio a Ferrara. Da lì al dicembre dell'anno scorso ci sono stati anni anche un po' caotici, però comunque proficui, di collaborazione fra me e Checchino Antonini. Abbiamo sempre aggiornato la storia, legandola anche a una storia verosimile inventata e parallela dei due protagonisti, per non fare per non realizzare magari il solito libro a fumetti di cronaca legato a un fatto specifico, un fatto storico oppure a un personaggio. I fatti raccontati nel libro a fumetti finiscono nel 2007, cioè quando subito dopo l'incidente probatorio, cioè subito dopo che è stato stilato un documento che il tribunale ha stabilito che c'era una concausa anche non diretta tra la presenza dei poliziotti e il decesso di Federico. In mezzo sono decine di pagine di incidente probatorio che un po' hanno lasciato adito a interpretazioni diverse, però l'origine del decesso di Federico è un po' riassumibile in questa formula. Poi spero sia d'accordo come la sto formulando anche Patrizia: se non c'erano, la sintesi è questa, se non c'erano i poliziotti, Federico oggi sarebbe ancora vivo. Che mi sembra anche abbastanza lapalissiana come conclusione. Non so se Patrizia ha altro da aggiungere nella ricostruzione fatta da Alessio. Sì, in realtà da aggiungere, sì, è stata una sintesi corretta, però teniamo presente che ci sono stati due anni di processo a questo punto e più di 30 udienze che in realtà hanno costituito l'indagine stessa, perché fino a quel momento, fino al momento del libro, insomma fino alla fase del libro, in realtà non c'era praticamente nessuna indagine, l'indagine non c'è quasi stata, si è sviluppato solo dopo. Praticamente con la fine di questo libro comincia il processo e comincia anche l'indagine, nel senso che sono stati sentiti i testimoni e tutto quanto. La parte precedente, cioè fino al giorno del rinvio a giudizio, che è quello con cui si conclude il libro, in realtà aveva visto solo pochi frammenti, che però, cioè delle fasi diciamo iniziali, l'incidente probatorio appunto, che questi pochi frammenti però hanno convinto il giudice che un processo si doveva fare, e da lì sono andati avanti. Diciamo, lui racconta nel libro proprio la parte più difficile, che è stata, si chiama proprio zona del silenzio, che è stata quella nella quale questo silenzio è stato squarciato con dopo il blog, appunto, come diceva Alessio, e soprattutto il blog è stato forse la scintilla, ma ha infiammato talmente tanta parte di persone che sono sul web, e soprattutto molti giornalisti, Checchino, Antonini sicuramente è il primo di questi, che hanno voluto approfondire e guardare un po' oltre la copertura che ormai si sa avevano organizzato e tessuto alcuni componenti della questura di allora, e che non a caso adesso sono sottoposte all'indagine bis per depistaggio e collusioni varie, omissioni e quant'altro, che comunque erano tutte tese a nascondere il più possibile quello che era successo. Infatti, come diceva Alessio, non si sapeva nulla, non era una notizia. No, assolutamente, infatti il grosso del merito di questa vicenda va innanzitutto a te, che a parte ti sei appropriato di un mezzo che spesso viene usato poi in maniera anche abbastanza idiota, ma la cosa importante è che poi dopo la tua denuncia, la tua uscita, la tua rabbia, poi sia stato raccolto il tuo appello e faticosamente poi si è squarciato questo muro che si era venuto a creare nella città di Ferrara. Ricordiamo che è stata anche una inchiesta abbastanza particolare, c'è cioè un'inchiesta parallela aperta nei confronti dell'ex questore della città di Ferrara per depistaggio, questore che è stato rimosso e spostato in un'altra città. Dunque è una storia che è anche molto più grande di quella che si potrebbe che potrebbe sembrare, anche molto più grande alla fine di Federico stesso, che evidentemente si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato in una città che è evidente che almeno in quel periodo era una città comunque malata per quanto riguarda le forze dell'ordine. Sì, sì, io non credo che sia migliorata molto, cioè, sinceramente, perché le persone che comunque sono sottoposte ad indagine, e il questore, volevo precisare, non è esattamente fra quelli iscritti nel registro degli indagati per l'indagine bis. Lui adesso è in pensione, è passato anche lì da Roma, cioè è stato rimosso da Ferrara, è passato a Modena e poi gli ultimi mesi della sua carriera sono stati lì a Roma e adesso è in pensione. Diciamo, lui quel giorno, quella mattina, non era nemmeno a Ferrara, era a Modena, la sua città, per un matrimonio, credo, e non ha ritenuto di non venire nemmeno in città, di non interrompere quello che stava facendo. C'è stato tutto un insieme complicato di cose che naturalmente nascono da quel momento, ma subito dopo aver ucciso Federico hanno sicuramente pensato a come gestire quello che era successo. Hanno aspettato, volevo ricordarti, 5 ore prima di avvisare noi, la famiglia. In quelle 5 ore intanto pensavano a cosa dire pubblicamente, a cosa dire a volte anche ai loro superiori, però il grandissimo torto dal mio punto di vista del questore di allora è di avere creduto pedestremente alla versione che gli veniva fornita e di non aver fatto alcun approfondimento, perché altrimenti non ci sarebbe stato tutto questo tempo, forse l'indagine sarebbe partita correttamente subito, forse le verifiche si sarebbero fatte subito con meno dispendio anche di soldi, perché sono passati 4 anni di cui quasi 3 di processo, e tutto perché all'inizio chi doveva fare le verifiche e gli approfondimenti non li ha fatti. Quindi lui sicuramente ha peccato di omissione dal mio punto di vista, e la cosa brutta è che poi, anche quando forse cominciava a rendersi conto, ormai aveva sposato quella tesi e non ha avuto l'umiltà di dire: beh, forse ho sbagliato, aspetta che verifico. Ha continuato a rimanere nella sua posizione e a difenderla, ed è stata via via demolita, come ora si sa. Questo è una grandissima delusione. Cioè, io in realtà ho aspettato 3 mesi prima di fare quel blog. Federico è stato ucciso il 25 settembre, il blog è uscito il 2 gennaio del 2006. Quei 3 mesi di attesa erano per noi proprio... Qualcuno non è stato fermo in quei 3 mesi di attesa, mettiamola così. No, infatti, per quei 3 mesi lì e per il periodo immediatamente successivo, loro hanno avuto comunque tutto il tempo di organizzare la loro versione, diciamo, sicuramente di far sparire delle prove. L'indagine BIS c'è perché successivamente, no, durante, come dicevo, il processo stesso, sono emersi degli elementi, per esempio i brogliacci della polizia corretti, alcuni tamponi scomparsi, i manganelli stessi che sono apparsi solo a un certo tempo dopo, tutti quelli rotti, intendo, ne sono andati rotti 2 su 4 ed erano stati occultati a lungo. E tutte queste cose, insomma, ci autorizzano a pensare che chissà quali altri elementi possono essere stati nascosti. È stato lavato l'asfalto, è stata lavata la macchina, un sacco di cose, e chissà quali altre non sapremo mai. Cioè, loro hanno avuto, prima che i poliziotti venissero iscritti al registro degli indagati, questo è successo 6 mesi dopo che avevano ucciso Federico, in tutti quei 6 mesi hanno avuto tutto il tempo di organizzarsi tranquillamente. Poi, ti dicevo, i primi 3 dei quali per noi erano in attesa della verifica che il questore stesso ci aveva promesso, perché adesso sappiamo non ha assolutamente mai fatto. Patrizia, e anche, scusa ti interrompo, sì, volevo porre una domanda sia a te sia a Alessio. Il sottotitolo di questo libro a fumetti, di questa fiction basata su, però, una maniera anche intelligente di raccontare un fatto di cronaca vero, ovvero farlo tramite un fumetto, tramite una fiction, eccetera, il sottotitolo è "Una storia di ordinaria violenza italiana". Questo a me sembra molto azzeccato, pure nella sua drammaticità, del fatto che l'omicidio di Federico venga messo in questo sottotitolo non come un evento straordinario, ma purtroppo come un fatto ordinario, perché rientra purtroppo nell'ordinarietà di una serie di cose che anche questa radio prova a raccontare, che sono poi la brutalità spesso insensata che può capitare, in cui può capitare a una persona normale, a un ragazzo normale, a una persona qualunque in una città italiana, di incappare senza capire neanche bene perché. E purtroppo la cosa ancora forse più grave rispetto a questo è che dopo anche l'omicidio di Federico abbiamo visto anche altri molti fatti gravi accadere questa città, a cominciare da Aldo Bianzino, un'altra persona incappata più o meno casualmente. Io, insieme alla parola, io aggiungerei anche la parola impunità, oltretutto, perché poi questi fatti si avvengono con una certa regolarità, perché evidentemente c'è gente che sente di poter godere anche di una certa impunità. E se non fosse stata per la tenacia di Patrizia e delle persone che l'hanno sostenuta, probabilmente questa storia avrebbe fatto la fine di tante altre storie italiane, come viene scritto nel libro. Sì. Certo. E poi, cioè, a me sembra che l'atteggiamento e la posizione tenuta dai responsabili, sia nei casi che hai citato, come quello di Aldo Bianchino, a me viene in mente il ragazzo nero di Parma prestato di recente, oppure per esempio anche il caso di Riccardo Rasman di Trieste, nero di Carpi. Insomma, io ho in mente diversi episodi, ma hanno tutti una costante: la diffamazione, la denigrazione, proprio l'annichilimento della vittima. Cioè, l'atteggiamento, e questo anche per Carlo Giuliani, immediatamente dopo che era successo questo fatto, Infatti la versione ufficiale diceva che la vittima era comunque, e questo è riportato anche nella prefazione, una persona, nel libro parla di Zec. In realtà di tutti questi si è detto, alcuni erano extracomunitari, di Federico era un drogato, frequentava i centri sociali. Sì, tra l'altro scusa se ti interrompo, come se il fatto che una persona fosse anche, non è questo il caso, come se un tossicodipendente o un extracomunitario o qualsiasi persona di una che magari vive o soffre un disagio debba essere per forza una persona di categoria di serie B o di serie C. Esattamente, cioè, è proprio questo, il voler classificare comunque le persone, forse non mi sono spiegata bene, cioè, a me questo atteggiamento del squalificare dal loro punto di vista naturalmente, in ogni modo, cioè, nel dire è una persona senza importanza che comunque aveva fatto qualcosa, aveva una condotta morale di qualche tipo nella sua vita, per cui non era una persona degna di rispetto, con le connotazioni che poi via via gli attribuiscono loro secondo il loro immaginario. Ma questa è una condotta che utilizza la mafia. Io mi ricordo le parole del procuratore Grasso, il procuratore antimafia, in un documentario che ho visto di recente che mi ha molto colpito. Questa è la strategia che utilizza la mafia. Molto spesso ci sono degli omicidi di mafia di cui non si sa nulla fino a quando la famiglia stessa magari si ribella e insiste e cerca di far venire fuori la verità, perché attribuiscono la morte della vittima alla sua condotta morale o comunque ad un passato torbido che in realtà è invece solo l'opposizione alla mafia o alla delinquenza. Come se si sostituissero un pochino al giudizio di organismi istituzionali preposti. Poi al di là del caso in sé, parlavamo non casualmente della questione dell'impunità, perché in questo paese anche soltanto negli ultimi 10 anni ci sono purtroppo decine e decine di casi in cui, almeno quelli che si sanno, sono decine di casi in cui chi ha una divisa, al di là delle sue intenzioni o del caso o della volontà, di fatto purtroppo arriva anche a metodologie anche un po' grottesche per nascondere l'evidenza di anche un dramma. C'era un'inchiesta che aveva cominciato un gruppo di attivisti qualche anno fa. Io mi ricordo proprio le cronache, per esempio, di una località di cui non si sa molto, che non è comparsa nelle cronache nazionali. Nell'arco di 2 anni i carabinieri di Giarre, in provincia di Catania, hanno avuto modo di avere in 2 casi lo stesso, tra virgolette, incidente, inseguendo in un paio di occasioni dei ragazzi che commettevano un furto di un'auto o di un motorino, li hanno ammazzati in 2 casi diversi a distanza di 2 anni. E nel caso strano, forse è una coincidenza, forse siamo noi che siamo in malafede, però la cronaca ci parla del fatto che questa caserma sono uscite per 2 volte delle scuse un po' simili. Hanno detto per 2 volte la pistola di uno degli agenti si era inceppata ed era partito un colpo dopo una frenata della macchina, quindi non hanno nemmeno più la fantasia sono carabinieri, poi, fantasia. Anche qui c'è la versione standard. Io so di almeno un caso successivo a Federico in cui un ragazzo in questura proprio hanno chiamato l'ambulanza, e quindi un controllo medico in questura stessa, perché c'era un ragazzo ferito, molto ferito, insomma picchiato, e loro dicevano che questo ragazzo si era procurato le ferite da solo saltando di sua spontanea volontà contro l'auto della polizia. Ma cosa che fanno un po' tutti quando vengono fermati dalla polizia, quella di lanciarsi contro... Sì, si lanciano contro l'auto, sì. Ci saltano. Di Federico hanno detto che si è lanciato sul cofano dell'auto e, come sai, c'è caduto a cavalcioni della portiera, procurandosi una... schiacciando praticamente lo scroto, i testicoli, ma nonostante questo lui si alzava comunque. Ci hanno delle versioni talmente pazzesche che però pretendono di vendere così come sono e che la gente gli creda. Senti, ma torniamo sempre per rimanere... Allora, nel libro viene anche raccontata un po' quella che è la città di Ferrara. A distanza di alcuni anni, in qualche modo, non so, cioè, raccontaci che reazione ha avuto, cioè, la tua città, perché poi è la tua città dove vivi, dove risiedi, dove viveva anche Federico. Come ha accolto questa storia, come ha reagito a questa storia e quanto ha partecipato poi sia emotivamente che anche fisicamente a quella che sono stati poi gli sviluppi stessi o le mobilitazioni che ci sono state intorno alla storia di Federico? Diciamo, la mia città inizialmente credeva a quello che c'era scritto sui giornali, non tutta veramente, c'erano delle persone che in realtà da subito, insomma, hanno percepito che c'era qualcosa di strano nella versione ufficiale e non l'hanno creduta, però credo che questa sia veramente una parte piccolissima delle persone. Poi perché comunque loro sanno diffondere le notizie, cioè non sono sprovveduti, di solito non attaccano apertamente, ma instillano un'opinione, cioè danno una versione a poco che finisce col diventare convincente, le persone a furia di sentirla magari la credono anche, poi finiscono col non porsi più il problema. E la cosa appunto stava scivolando via nel nulla in questo modo. E quindi all'inizio in realtà ci sentivamo veramente molto isolati da questo punto di vista, tranne le persone e gli amici più vicini, insomma quelli che conoscevano bene Federico e noi, cioè questi ovviamente ci sono sempre stati vicinissimi, però le persone magari quelli sai che conosci un po' ma non tanto, avevano parecchi dubbi, dicevano ma chissà cosa ha preso. Molte delle persone che conoscevamo un po' e che tuttavia conoscevano anche Federico un pochettino, non dico che lo conoscevano, però in realtà credevano purtroppo a questa versione. E poi via via, c'è questa loro arroganza, diciamo, e questa loro, come dicevi tu, pretesa di impunità, che qui in città si è espressa anche nelle parole del procuratore capo, che prima ancora che facessero l'autopsia ha detto no, Federico non è morto per le percosse. Quando si è cominciato a sentire, è cominciato ad uscire la notizia che in realtà l'avevano massacrato, che era proprio sfigurato, mio cognato pensava che fosse stato investito da una macchina, e invece la loro versione diceva no, noi non l'abbiamo toccato, è morto davanti a noi senza che lo toccassimo. Quando hanno cominciato ad apparire evidenti le contraddizioni, si è spostata, diciamo, l'opinione. Prima c'è stata la fase del dubbio, delle domande, e comunque anche quella fase è stata parecchio difficile perché nessuno prendeva posizione, e anche lì è veramente è dura, dai. È una cosa pazzesca, ci vuole... a me è costato tantissimo, però lo rifarei mille volte. È costata tanta fatica, è costata anche tanta rabbia e tanto dolore, ovviamente, perché non riuscivo a... cioè, quando chiedevo ai giornali di parlare, di dire guardate questa foto, pubblicatela, loro ma no, non possiamo, poi la questura, se noi tagliamo i ponti con la questura non ci passa più le notizie, dobbiamo chiudere il giornale. Ti giuro, era terribile questo. E poi purtroppo, purtroppo è il quotidiano poi questo. Sì, il quotidiano locale. E poi per fortuna invece c'è internet, le cose, è uno spazio di libertà che ancora esiste. Io so che anche la stampa adesso se ne parla, forse di libertà ne avrà sempre meno, ma in quel momento loro non avevano notizie, ma anche sulle pressioni che cercavamo di fare noi non anche con la fotografia davanti, in realtà non avevano il coraggio di porsi in contraddizione con la questura. E purtroppo invece è così, cioè, però pian pianino le cose sono uscite. Poi per fortuna è arrivato Checchino primo, perché in realtà è questo, è stato il primo che il primo giornale nazionale che ne ha parlato, e da lì via via tutto quanto. Adesso la mia città, che prima diciamo stava a guardare e che ci faceva sentire veramente come prima isolati, poi forse era come se scottassimo, capito? Non eravamo persone da vedere da lontano, ma da non è terribile, non riesco neanche a descriverlo. Adesso invece è cambiato assolutamente tutto, cioè via via che sono emerse tutte le verità che si tenevano nascoste, l'atteggiamento è cambiato moltissimo. Io ho tante persone che mi fermano per la strada, si congratulano e mi insistono perché io non molli, perché non mi lascio andare. Questo lo fanno con me, con mio marito, con la mia famiglia, e so che ci sono tutti molto vicini, cioè lo sento anche al di là delle parole. E questo poi è successo anche nel tempo a livello istituzionale, cioè il sindaco che adesso è appena cambiato, ma quello che c'era prima in realtà è stato uno dei primi a porsi delle domande e a chiedere gli approfondimenti e le verifiche, tanto che le ha chieste in un'occasione pubblica, era la festa della Polizia Municipale ed era a marzo-aprile 2006, proprio il momento insomma in cui sono venute fuori le notizie iniziali, il momento in cui Checchino cominciava a scrivere. E lui ha detto, beh, come in questa festa della polizia locale c'erano tutte le personalità locali varie, tutte le istituzioni, c'era anche la polizia, c'era il questore di allora, dice, io chiedo una verifica e un approfondimento su un caso di morte violenta. Non a caso i poliziotti ci sono rimasti un po' male, non solo in quel caso. Ricordo, vabbè, diciamo purtroppo uno dei sindacati di polizia, il sindacato autonomo di polizia, è stato uno dei protagonisti in questo senso, perché come ricordava prima Patrizia, se ci sono stati degli strati della società, dai semplici cittadini ai giornali locali che si sono comportati quantomeno con contraddizione, approfittando del potere che ha un'informativa della polizia piuttosto che un'inchiesta fatta sul campo da un giornalista, sono arrivati addirittura quasi, se non totalmente, quasi a soprattutto nei primi tempi, a colpevolizzare la famiglia o gli amici che avevano o educato male, tra virgolette, oppure accompagnato in posti un po' equivoci Federico, come se la frequentazione di un centro sociale bolognese poche ore prima del decesso fosse come se questa fosse una grande colpa, infatti, sì, fosse una discriminante, al di là del fatto poi al di là di quello che poi che realmente poi accaduto, non può essere assolutamente quella la discriminante. Ma tornando poi al libro, visto che troviamo anche questa è una domanda per tutte e due, innanzitutto a te chiedo perché io ho apprezzato molto il fatto che il libro invece riesca a mantenere, di fronte a una storia così tragica, perché di questo si parla, riesca comunque a mantenere una leggerezza, se vuoi anche inaspettata, ossia non va a scavare nel dramma, che sarebbe anche abbastanza facile perché la storia è già drammatica di sé e non serve neanche spingere su quel tasto. E poi magari chiediamo anche a Patrizia quanto ha apprezzato, se le è piaciuto e via dicendo. Diciamo che innanzitutto è partito dall'esigenza della casa editrice stessa, la Minimum Fax, di fare un romanzo più che un saggio. Se avessimo questa scelta, questa esigenza è stata sposata senza remore né da me né da chi, ma sarebbe, a parte tecnicamente, sarebbe venuto proprio la metà, sarebbe venuto fuori un romanzo a fumetti molto più, più scarno, se avessimo voluto fare soltanto la cronistoria di quello che è successo, anche inserendo dei flashback eccetera. Invece abbiamo tentato di immaginare un universo parallelo inventato, una storia personale tra il giornalista che si occupa del caso e uno degli attivisti che per caso un giovane che si occupa del omicidio stesso, non soltanto perché era proprio una esigenza editoriale che pensavamo di interpretare anche proprio dal punto di vista così comunicativo, quello che potrebbe essere l'occhio, lo sguardo di un chiamiamolo non addetto ai lavori, anche di una persona non impegnata politicamente, oppure una persona che difficilmente va a leggere i giornali, la cronaca eccetera. Questo è un libro che noi ci immaginiamo sia letto un po' da tutti, e non soltanto da c'è la vicenda, da chi addirittura si è impegnato in prima persona. Poi, l'ultima parola ovviamente poi spetta alla famiglia, a Patrizia, a Lino, che non a caso abbiamo voluto sentire prima di mandare alle stampe il fumetto. Tu che impressione hai tratto da questo libro, visto che poi in qualche modo non parla? Ah no, voi ci siete nel libro, tu e tuo marito, e se non sbaglio in un qualche tavolo. Sì, siamo. No, che impressione, cioè, come ti sembra, quanto ti è piaciuto, l'impressione, senza poi dare troppo di giudizi definitivi. Ma sai, io avevo letto naturalmente le bozze del testo che ci aveva mandato Pecchino Antonini, senza vedere la storia resa con i disegni di Alessio, e avevo visto solo qualche sua bozza, e al di là del fatto che mi piaceva il suo modo di rendere i personaggi, anche la trasposizione negli animali mi piaceva molto, perché comunque senza bisogno di tante descrizioni, in realtà io trovo che dia una connotazione molto precisa in realtà. E quello che mi ha stupito del disegno di Alessio, insomma, la storia che Chino l'ha vissuta praticamente assieme a noi, è stato veramente un protagonista di questa indagine, perché lui ed alcuni altri giornalisti subito dopo di lui hanno veramente aperto l'indagine, che prima non esisteva, e quindi l'hanno seguita poi. Però vederla trasformata in una fiction, in un fumetto, mi ha fatto vedere, diciamo, io in Alessio, nel suo modo di rendere questa storia con questo tipo di fumetti, insomma, l'impressione che mi deriva dalle sue immagini è quella proprio di un ragazzo, cioè, mi sembra di vederci il punto di vista che poteva essere di Federico stesso, proprio come diceva lui, al di là di qualunque connotazione, un ragazzo come vede questa storia, e mettendosi anche con quelle immagini senza dialogo di Federico, prima con gli amici e poi le immagini che hai citato tu, quelle centrali che diventano sempre più piccole, che chiudono la vicenda con la faccenda del fatto, cioè con il man mano che il cuore di Federico rallenta, capito? Io non posso che associarlo a questo, mi sembra comunque il punto di vista che poteva avere Federico, perciò mi ha fatto veramente una grande impressione, mi ha toccato veramente il cuore, mi è piaciuto moltissimo, non immaginavo che la resa di un fumetto sarebbe stata così toccante. Diciamo che dal mio punto di vista egoistico io non posso che essere felice di una di queste parole, no? Perché anche perché considero Patrizia la mia migliore la persona che ha fatto la miglior recensione finora del libro, no? Ma a parte gli scherzi, io ogni volta che faccio un fumetto, una vignetta, spero e mi sforzo sempre di scrivere la realtà così come la vedo. Poi non è un caso che non soltanto io, Patrizio, oppure il giornalista realmente esistente Checchino, ma anche diverse persone qui presenti in radio si possono riconoscere in alcuni personaggi, sì, ritratti. Anche un po' troppo, aggiungerei. Sono lasciato andare. Sì, la Patrizia, tu alcune cose magari non le sai, però anche un po' troppo. Infatti non lo so, perché tu che personaggio sei, quale sei? Lasciamo perdere, andiamo avanti, perché andiamo avanti. No, però è importante anche che sia stato recepito in questa maniera da parte tua, anche perché non mi aspettavo, nel senso che leggendolo poi ho anche pensato a un certo punto quale poteva essere la prima cosa che ho chiesto ad Alessio incontrandolo, era qual era stata la reazione delle persone più vicine a Federico nei confronti di un libro che comunque è un libro abbastanza anomalo e che esce fuori da ogni schema. Senti, un'altra cosa velocemente, perché poi tra poco andiamo verso la conclusione, poi chiedo anche a chiunque di noi che sta qua, se volesse intervenire, aggiungere altro. E vabbè, questa è una radio un po' particolare, che non ha particolare fiducia nei tribunali o nei processi giudiziari, soprattutto perché si sa poi come funzionano, però che idea ti sei fatta di quale potrebbe essere la sentenza, se può andare in qualche maniera? Io, in realtà tutto quello che ho fatto l'ho fatto perché viceversa avevo una grande fiducia nella giustizia, non avevo mai avuto direttamente a che fare, insomma ci credevo, io so che la verità, il giudizio, la sentenza di un tribunale non può rispecchiare la verità, questo non me lo aspetto, però cerca di andarci il più vicino possibile, e su questo io mi sono mossa con grande fiducia, effettivamente, che ho ancora, però devo dire che ho visto quali e quanti sono gli ostacoli e quali e quante sono le tutele che hanno i poliziotti, sono grandissime, insomma io penso che questo fatto sia talmente palese, eclatante, ma loro arrivano a mettere in dubbio perfino il pestaggio. Cioè, ci sono le fotografie, non c'è bisogno di chissà quale deduzione. È tutto talmente lampante, eppure è costato 30 udienze di processo, perizie, ormai non le conto più, perché bisogna comunque articolare nei dettagli una prova che tocca in questo caso all'accusa e che deve provare poi che Federico sia morto a causa del pestaggio, quando loro invece sostengono che sarebbe morto lo stesso nel suo letto. Queste sono le loro versioni, cioè tendono, diciamo, a confutare, a frammentare tutta la sequenza per distogliere l'attenzione, almeno questa è l'impressione che ho avuto dalle arringhe degli avvocati e loro difensori, cercano di sminuzzare il tutto per togliere la visione generale di quello che è successo. Parlano di perizie e di anatomia e di frammenti di questo telefonato, questo detto, questo visto, quella parola, e si dimenticano che Federico è morto, cioè parlano di questo cercano naturalmente di fare dei grandi discorsi per aggirare il punto centrale, per farti dimenticare il fatto che Federico è morto sotto il loro pestaggio, che non c'era alcun bisogno, perché Federico non stava facendo proprio niente, a detta loro. È assurdo, cioè, mi rendo conto che io continuo ad avere fiducia nella giustizia, però mi rendo anche conto della difficoltà enorme di superare questa fase. È incredibile, ecco, sono veramente sconcertata di quanto sia difficile anche per il tribunale arrivare a definire una sentenza di una cosa talmente lampante come questa, perché dall'altra parte ci sono dei poliziotti e non dei cittadini comuni. Che si sono contraddetti, oltre alle fotografie, alle prove, oltre all'incidente probatorio, agli esami proprio del corpo, comunque solo il fatto che hanno cambiato versione per ogni piccolo particolare almeno tre volte nell'arco di 3 anni, già basterebbe questa come prova. Sì, ma guarda, cioè, poi il fatto è uno e uno soltanto, Federico non è più qui. Certo. E se non li avesse, proprio torniamo all'inizio, a quello che alla frase iniziale che hai detto, se non li avesse incontrati adesso sarebbe qui. Esattamente. Senti, allora noi ti stiamo per salutare perché poi andremo alle conclusioni insieme con Alessio. Sai benissimo, no? Il sostegno che con la radio, sai benissimo che qui ovviamente continueremo a seguire, anche ci sentiremo la prossima settimana, visto che ci saranno altre fasi processuali e sentiremo non soltanto te, magari sentiremo anche Checchino, perché continuiamo a seguire questa vicenda, che comunque è una vicenda che abbiamo fatto anche nostra, perché quando muore un ragazzo di 18 anni in una situazione del genere non può che non essere una storia nostra. E noi ti ringraziamo come sempre, lo sai, innanzitutto della disponibilità che ci dai sistematicamente, e anche perché penso che non sia così semplice e non è stato così semplice neanche per te partecipare a tutte quante le udienze e ritrovarsi anche di fronte immagini fotografiche che facevano impressione a noi, non eravamo direttamente coinvolti perché parlavamo di una persona che non si conosceva. Credo che per voi amici, familiari, parenti e tutti sia stato un qualcosa di... Sì, però sai cosa, certo che ci fa, è stato doloroso e difficile, però io lo dico spesso, quello che abbiamo poi passato noi e che stiamo vivendo anche adesso non è niente in confronto a quello che ha dovuto subire Federico. Per questo sono convinta che quei poliziotti debbano pagare per quello che hanno fatto, perché il male che hanno fatto a Federico è troppo grande, cioè non possono passare la liscia assolutamente. Perfetto, noi ti ringraziamo, un abbraccio da noi che siamo in studio, da tutta quanta Radio Onda Rossa, e a presto. Ciao Patrizia, grazie ragazzi, a presto. Ciao a tutti, ciao. Noi abbiamo fatto le 19:08, sono 43 minuti che parliamo, andiamo verso la conclusione insieme ad Alessio che abbiamo precettato, Alessio Spataro, colui che ha disegnato fisicamente il libro, almeno così c'è scritto sulla priva di... Legalmente, sì, dal punto di vista giuridico sono stato io. Senti, altre due cose sul libro che non abbiamo detto perché abbiamo parlato giustamente anche d'altro, perché questo è un libro un po' particolare, ne parlavamo anche all'inizio, un libro particolare, parla di una storia di ordinaria violenza in Italia e non si può che concludere attraverso alcune così, quello che non abbiamo raccontato, come abbiamo detto. Sì, diciamo che, vabbè, per concludere, a parte descrizione... No, scusa, metti un attimo bene il cavo perché altrimenti va via la tua voce, vai. No. No. Neanche? Arrivetti il cavo curvo come era prima, devi fare quella... Così. Perfetto, tutto sei bello così poi. Va bene, allora sto così, posizione non eretta. Mi sentite meglio? Io volevo specificare, perché è stato, è stato detto durante quest'ora, però forse non in maniera chiara, la scelta di realizzare un libro a fumetti con animali antropomorfi che sostituiscono i personaggi purtroppo forse realmente esistenti, non è casuale, è una... È una scelta tecnica che un po' sostituisce la mia mancanza di bravura. In realtà da un altro punto di vista è proprio una specie di imitazione pura e semplice a quello che è stata la mia scuola da ragazzo, la scuola disneyana, anche se è uscita da poco una recensione di cui io sono molto fiero dal mio punto di vista egoistico, uscito poco una recensione che paragona più che allo stile disneyano, allo stile animalesco, questa scelta tecnica la paragona un po' di più al Mouse di Art Spiegelman. Io mi sento troppo lusingato, ma anche, è stata anche eccessiva come cosa. Poi avrei detto anch'io lo stesso. Se, per sfotterti, volevo dire che non è nulla di originale, perché Spiegelman è riuscito a farlo molto meglio. Però siccome non sei stato tu l'autore di questa recensione, non era tuo il blog, io mi sono sentito lusingato proprio per questo. Meglio non dire queste cose in giro, magari qualcuno pensa pure che è veramente farina del tuo sacco. No, noi ringraziamo Alessio della disponibilità, ripetiamo nuovamente che questo è un bel libro, si chiama La zona del silenzio, una storia di ordinaria violenza in Italia, l'autore è Alessio Spataro, ai disegni, i testi di Checchino Antonini, edizione Minimum Fax. Costa 16 euro, che io continuo a pensare che sia un prezzo enorme per 15, i libri, però, 15 però è purtroppo il prezzo medio dei libri ormai. Purtroppo è normale. Di nuova uscita, però per fortuna è uscito per una piccola casa editrice che comunque pubblica delle cose anche abbastanza decenti. Non so, passa pubblicità gratis, perché tanto a me non mi paga nessuno, il libro l'ho pagato tutti e 15 euro il giorno stesso che è uscito, però veramente ne vale la pena, e noi niente, vi salutiamo.